Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, torna il grande calcio internazionale di club, torna quindi la Champions d'autunno, in attesa poi che diventi di tutt'altro fascino la Coppa Campioni in primavera con l'eliminazione diretta. Torna l'appuntamento del martedì con il nostro ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, è inevitabile, si dice noblesse oblige in questi casi, si parte dai detentori, si parte dunque dall'Inter e dalla partita di stasera, il suo primo avversario, gli olandesi del Twente. Sì, noblesse oblige ed è giusto che l'Inter sia stata messa nella prima giornata, quella di martedì, contro un avversario non trascendentale, certamente non di tradizione, nel senso che il Twente non è mai arrivato alla fase a gironi, è allenata da un giocatore che quelli della mia generazione conoscono bene, perché Prudhomme fu protagonista insieme a Jean-Marie Pfaff, forse dell'ultima grande stagione del Belgio. Un vero grande portiere. Riguardo alla squadra olandese, io credo che le difficoltà siano soprattutto ambientali per quanto riguarda l'Inter, perché mentre in campionato può essere che certi valori possano essere livellati e diventare mediani, per quanto riguarda invece la Champions League credo che la caratura internazionale degli attori protagonisti poi possa sempre o debba sempre fare la differenza, quindi stiamo parlando di una formazione che è piena di giocatori che sono protagonisti nelle loro nazionali, che hanno fatto il mondiale, che hanno vinto la Champions League, contro una squadra che invece qualitativamente a livello di singoli giocatori fa un po' più fatica e soprattutto non è abituato a un palcoscenico del genere, quindi credo che l'approccio e l'impatto debba essere favorevole all'Inter, che ha un blasone, una tradizione e anche una forza non da pochi, e quindi io trovo veramente che sia l'avversario giusto per poter cominciare il cammino per l'Inter. Sì, io credo che il rischio, hai detto bene, il rischio sia l'effetto Cesena, non so come dire, cioè l'effetto entusiasmo di una squadra che torna o debutta in una grande competizione, che si trova davanti i più forti o comunque quelli che stanno oggettivamente tra i più forti, e che quindi si infiammino e insomma, con delle motivazioni diverse riescano a capovolgere i valori. Credo che questo potrebbe essere il rischio. Sulla serata, insomma, dando un'occhiata, debuttano due delle pretendenti finali, anzi tre con l'Inter, perché ho visto Manchester Rangers nel cartellone e soprattutto Barcellona Panathinaikos. Ora non so chi stia peggio, sta peggio il Barça, però delle due sulla base di sabato in campionato non so chi sta peggio. Ma guarda, io trovo che il Barcellona stia peggio da un punto di vista del periodo, nel senso che trovo che il Barcellona debba, ma questa è una mia idea ovviamente che non ha alcun riscontro, trovo che entro la fine dell'anno il Barcellona debba limitare i danni in campionato, cioè cercare di restare il più vicino possibile al Real Madrid o alla squadra che comunque starà in testa, perché e così anche con la Champions, cioè dovrà cercare di passare ma senza pensare di incantare o quant'altro, perché la stagione del Barcellona, che è stata una stagione già comunque lunga sia in campionato, perché il campionato è stato comunque combattuto e vinto soltanto alla fine, la Champions League comunque l'ha portata abbastanza avanti, anche se poi c'è stata l'eliminazione da parte dell'Inter, ma soprattutto il Barcellona ha fornito lo scheletro la testa e anche il cuore, direi, alla nazionale di Del Bosque, e quindi pensare che questi stessi giocatori provino entusiasmo, provino tutta quella foga che spesso ci mettono per affrontare l'Hercules o il Panathinaikos, ecco, io trovo che sarebbe quasi disumano pretenderlo da loro. E quindi ho davvero la sensazione che il Barcellona in questo periodo debba fare il compitino, magari non ce l'ha nel DNA di fare il compitino, però se ogni tanto si accontentasse anche di fare un gol normale senza cercare di fare 10 passaggi di fila, magari triangolando in maniera vorticosa, io penso che non farebbe male. Poi invece ci starà tempo più avanti, da gennaio in poi, per ritrovare il Barcellona dei giorni nostri, perché io ho visto la partita contro l'Hercules ed è stata veramente una partita da prendere e da studiare, perché quegli altri facevano contropiede e facevano gol o avevano delle occasioni, il Barcellona continuava questa enorme ruota, mi viene in mente la ruota che fanno i giocatori di basket prima della partita con il riscaldamento, tutti molto belli, tutti molto sciolti, però poi bisognava andare in porta e lì il Barcellona peccava. Verissimo, l'ho vista anch'io e sinceramente era sbalorditiva, però anche la bravura dell'Hercules nel colpire, così come era, mi viene in mente di nuovo Cesena, sì certo i demeriti della grande, però sbalorditiva la bravura della piccola in questa situazione. Sì, è anche vero che il Milan non ha quasi mai messo insieme delle trame a Cesena, cioè è stata una squadra molto slegata, il Barcellona, anche un Barcellona in cattivo stato di forma e soprattutto in cattivo stato motivazionale, riesce comunque a trovare certe geometrie, certe situazioni che poi possono diventare pericolose. Paradossalmente la partita con l'Hercules poteva essere la partita giusta per uno come Ibrahimovic, fosse stato con la maglia del Barcellona, perché è un giocatore che prende la palla, come ha fatto in una sola occasione a Cesena, sì, butta giù due avversari e tira una sassata a 103 km orari. Sì. Il Milan non è riuscito a mettere insieme grandi, grandi situazioni offensive per poter servire poi Ibrahimovic. Il clou della serata, prima di arrivare all'intervallo del traffico, il clou della serata mi pare Werder Bremen Tottenham, sì, così a occhio, perché poi ci sono sinceramente Benfica, Apoel di Tel Aviv, Copenaghen, Rubin Kazan, insomma siamo al solito contorno, no? Sembrano siamo i gironi mondiali di quelli trascurabili. Sì, Werder Tottenham è importante per due motivi. Intanto perché sono comunque due formazioni di una certa tradizione, c'è il ritorno del Tottenham in Champions League, purtroppo per il Tottenham la squadra di Redknapp ha perso il suo giocatore più importante, che è Jermain Defoe, che tra l'altro era anche in un eccellente momento di forma. Per quanto riguarda il Werder, mi ha stupito moltissimo il fatto che il Werder senza Naldo e Mertesacker sabato sia riuscito a portare a casa lo 0-0 contro il Bayern di Monaco, segnale che il Bayern di Monaco è in una di quelle sue fasi di partenza molto molto lenta, e quindi penso e spero che la Roma ne possa approfittare mercoledì. Detto questo, la partita, anche se non considerassimo il lignaggio di Werder Tottenham, è importante perché comunque è nel girone dell'Inter, e se una delle due dovesse vincere, io credo che l'Inter faccia il tifo perché questa partita non finisca in pareggio, che una delle due vinca e che di fatto metta già un'ipoteca su quello che dovrebbe essere il secondo posto del girone, dando abbastanza per certo che sarà l'Inter a vincerlo. La conferma arriva dell'importanza della partita, arriva anche dalla designazione, perché c'è Busacca ad arbitrare questa partita, quindi evidentemente l'UEFA ha individuato in questo match il più complesso della serata, mentre ricordo che tocca a Rizzoli la direzione proprio di Barcellona-Panathinaikos. Uno sguardo alle partite di domani, con in compagnia di Fabio Tavelli. Ovviamente quelle che ci riguardano più da vicino sono la trasferta della Roma sul campo del Bayern di Monaco, il debutto casalingo del Milan con l'Auxerre, e poi direi mi soffermerei su Real Ajax, ma anche sulla trasferta del Chelsea, per introdurre un concetto, Fabio, che poi sarà quello successivo, su cui più o meno chiuderemo questo primo appuntamento di stagione, e cioè... nel bel mezzo di una rivoluzione molto temporanea, si capisce, ma che ha decapitato i vertici europei nei rispettivi campionati, per cui da noi c'è il Chievo, di là c'è il Magonza, eccetera, e tu ci riassumerai poi questo, l'unica squadra che viaggia tranquilla e serena in testa delle grandi d'Europa è proprio il Chelsea di Ancelotti. Ora partiamo da qui, Gigi. Il Chelsea ha fatto una partenza praticamente perfetta. Ha preso un gol al 90esimo dall'West Ham, è stato un bellissimo gol da parte di Parker, forse il migliore del weekend, ma totalmente ininfluente. Il Chelsea non ha avuto un calendario insomma impossibile, ma ha impressionato perché ha una tenuta difensiva stagna, una tenuta difensiva notevole, ha concesso un solo gol e insomma, credo che questo sia un Chelsea che abbia sia le caratteristiche del Chelsea di Mourinho, cioè grande spregiudicatezza, moltissima attenzione difensiva, poca concessione all'avversario, ma anche qualche caratteristica più ancelottiana, che è quella invece di trovare comunque delle trame interessanti e di muovere le pedine per avere anche una certa qualità di gioco. La restaurazione, o meglio la rivoluzione, dici bene tu, dei vari campionati è curiosa, perché insomma se in Italia c'è il Chievo, in Francia ci sono il Tolosa che tra l'altro ha perso contro il Saint-Étienne, altrimenti sarebbe a punteggio pieno, ma comunque è partita benissimo in un campionato che invece mette in grandissima difficoltà il Lione, il Marsiglia e il Bordeaux, cioè le tre grandi, tanto ormai per scontato che il Paris Saint-Germain non è più grande da un po' di anni. Poi grandi sorprese anche in Germania, anche se poi in realtà la Germania ci ha abbastanza abituato in questi ultimi anni a livellare molto la propria classifica e i propri valori, anche se poi alla fine vince quasi sempre il Bayern di Monaco. Più che incuriosirci, credo, il primo posto di Hoffenheim o la grande partenza del Mainz, a me ha fatto veramente spavento vedere in classifica squadre come il Wolfsburg, come lo Schalke 04 o come lo Stoccarda e restare ancora al palo dopo tre partite. Beh, insomma, un po' come da noi, leggerla dal fondo e vedere Udinese 0, poi Napoli, Juventus, Roma, eccetera. Vero. Napoli sono partenze che secondo me sono abbastanza motivabili, con due motivi. Intanto prendo a prestito una metafora di un gran premio, cioè queste sono autovetture che devono fare il pieno, cioè sì, devono partire certo. col pieno, quindi sono pesanti perché la loro stagione sarà certamente più lunga, mentre invece le altre possono partire più leggere per fare anche il pit stop e quant'altro. Il Hoffenheim non è una sorpresa perché già comunque in questi anni ha fatto bene. Lo stesso Chievo in realtà non è una novità perché fece anche meglio in passato, e ovviamente auguriamo alla squadra di Pioli di continuare a fare bene. Mi impressiona parecchio la Francia, perché secondo me quello è il vero campionato dove c'è il livellamento, che è verso il basso perché le grandi sono veramente molto molto calate, però è un campionato che potrebbe finire davvero con un volatone finale e magari anche con la grande sorpresa, mentre gli altri, insomma, in Italia cioè, ci sono tre squadre che lo possono vincere, in Germania direi due e in Spagna pure. Certo. Allora, ci rimane da orientare un pochino, insomma, da mettere un minimo in più a fuoco questa doppia sfida dell'italiana di domani sera e magari il debutto casalingo del Real, che si vale da un lato della suggestione del debutto debutto europeo di Mourinho su quella panchina e dall'altra però la suggestione disastrosa, no? di una Champions League in cui da tanti anni ormai Real finisce fuori come una ramazza puntualmente agli ottavi di finale a febbraio. Sì, la Champions finisce spesso a febbraio o i primi di marzo per il Real Madrid, tenendo in considerazione due cose: che le fasi di qualificazione di José Mourinho anche con l'Inter non sono mai state brillantissime, e può anche essere che non sia brillante anche quest'anno, anche perché Mourinho, mentre l'anno scorso aveva un girone abbastanza facile, quest'anno ha un girone molto complesso, perché l'Ajax è una squadra che comunque ha una caratura internazionale alta, anche se non ha più evidentemente lo spessore che aveva anni fa, però ha un giocatore come Suarez che è molto interessante e può anche dar fastidio, può anche creare problemi al Milan e al Real Madrid. È chiaro che il Real Madrid parte strafavorito nella partita che gioca in casa, però secondo me fare attenzione, perché proprio regalata l'Ajax non gliela darà. Per quanto riguarda il Milan, penso che l'Auxerre sia l'avversario migliore. L'Auxerre in 5 partite non è riuscito a vincerla manco una, ha fatto 4 pareggi e una sconfitta, alcuni pareggi poi magari rocamboleschi, anche un po' sfortunati, però non può essere un caso dopo 5 partite che una squadra abbia così pochi punti, cioè 4. Non ha grandi individualità, solo Pedretti è un giocatore che comunque la sua grande occasione ce l'ha già avuta qualche anno fa. Per quanto riguarda invece la partita della Roma, io credo che, insomma, delle tre sia la più interessante, un po' per vedere la Roma senza Mexès, senza Vucinic e Taddei, con il recupero di Totti, e soprattutto per capire quanto psicologicamente abbia influito la sconfitta di Cagliari, che è stata una sconfitta molto grave numericamente e anche psicologicamente, e io credo invece che complice anche il momento non brillantissimo del Bar di Monaco, con tutta probabilità all'Allianz Arena vedremo una buona Roma. Io chiuderei con, vabbè, a parte che ho visto due parate di Reina nella partita del Liverpool, assolutamente da grandissimo portiere. Ma, sì, peccato poi Reina in nazionale abbia fatto una paperaccia nella partita con l'Argentina. Sì, però due palloni sensazionali invece lì. Mi pare siano a quota 2 in classifica marcatori in Spagna, non solo Giuseppe Rossi, ma anche Conco e Osvaldo, come se l'aria spagnola facesse bene, no, a questi ex giocatori del nostro campionato. Sì, l'area spagnola fa bene di solito e soprattutto fanno bene gli spazi un pochino più larghi che si vedono nelle difese. Comunque è vero, trattasi di due giocatori che comunque hanno dei colpi e non è una cattiva notizia vederli comunque subito protagonisti. Io mi aspetto molto da Trezeguet, onestamente, per parlare di ex italiani. Mm-hmm. Giocatore che parteciperà sempre poco alla manovra, però ho la sensazione che se fiuta ancora bene l'area possa farne parecchi. Fabio, a giovedì, quando sarà il momento di un primo bilancio, anzi di un bilancio di questa prima giornata e insieme ad una vigilia di Europa League. Con grande piacere, grazie Gigi, buona giornata a tutti. Un appello adesso ai responsabili della ricezione delle frequenze, e mi scrive: vi pregherei di ripristinare l'ascolto una volta ottimo tra le province di Bergamo e di Brescia sui 104,8. Sapete che siamo sempre molto sensibili a questi problemi di ascolto, e in genere l'annuncio dell'appello, il solo segnale, non dico di guasto, insomma di qualcosa che non torna, significa automaticamente ripristino. Un passo indietro molto breve sino a ieri pomeriggio. leggo una notizia dell'agenzia molto bella, tutti in fila per Giacomo Bulgarelli, è datata San Pietro in Casale, provincia di Bologna, a metà strada tra Bologna e Ferrara, vento, pioggia, ma molto calcio italiano e non solo italiano di altri tempi, che è accorso per ricordare questo grande giocatore, questo simbolo del Bologna, dello scudetto del 64, ma non solo. E quando dico che sono accorsi in tanti, non so, leggo sempre da questa agenzia i nomi di alcuni dei presenti: Suarez, Rivera, De Sisti, Zoff, Antonioni, Pascutti, Pavinato, Colomba, Di Marco, Marco Di Vaio, e quindi gente del Bologna, Pecci, che a un certo punto si è guardato intorno e ha detto che vedendo tutta quella gente riunita gli sembrava di essere dentro al suo vecchio album di figurine. Tra queste figurine c'era anche un personaggio che si è mosso dall'Inghilterra, che è il commissario tecnico attuale dell'Inghilterra, per rendere omaggio a Bulgarelli, e che ha rilasciato in proposito questa breve dichiarazione. Sono qui perché è stato un amico, mi sono trovati in giro per il mondo, da tutte le parti, e quindi mi sono attaccato in maniera particolare al suo ricordo. Molto bello quando il calcio ha memoria. Ci sono un paio di argomenti che ascoltatori affezionati hanno ricordato di questo sabato e di questa domenica. Vediamo se c'è tempo, perché prima c'era un ascoltatore già collegato, mi sembra, che adesso è sparito dal display, e che ha chiamato, mi pare, da Bari. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Signor Garanzini. Niente, io chiamo da Bari, anche se sono tifoso del Torino, e da tempo non leggo più tutto sport come lei. Capisco che la domanda che le faccio forse è un po' fuori tema, però il suo autorevole parere così mi interessava. Questa mattina, leggendo tutto sport però al bar, mentre mi godevo il mio caffè, c'era una pagina dove un piccolo trafiletto parlava del presidente Vincenzo Matarrese del Bari, in modo così un po' ironico, non ho capito bene, mi piacerebbe sapere se lei l'ha letta o mi farà sapere anche domani, dove ammetteva che nel 1983, alla presidenza del Bari, anzi l'anno 77, suo fratello Antonio era presidente del Bari, e gli arbitri in tutti i modi, lei, mi piacerebbe che la leggesse bene, ammette candidamente che gli arbitri, su cui il fratello Antonio aveva una forte influenza, ogni settimana davano un rigore al Bari che puntualmente sbagliava. Il Bari navigava nei bassi fondi della Serie B e c'era Gigi Radice come allenatore, almeno così è riportato, e sbaglia un rigore Loseto, ricordo, centrale difensivo, e sbagliando il rigore il Bari andò in Serie C. Il fratello Antonio passa la presidenza a Vincenzo, che si vanta di essere presidente del Bari da tanti anni, ma mi sembrava un'ammissione così, io direi candidamente vergognosa, in quanto si è parlato tanto di calciopoli, stendiamo un velo pietoso sulla corruzione del calcio, ma davvero ammettere così candidamente che da diversi anni a una squadra come il Bari, anche una piccola società, suo fratello Antonio potesse avere un'influenza così chiara sugli arbitri, mi ha lasciato un po' perplesso, secondo me è una caduta di stile, non so. La saluto. Saluto lei, Giuseppe, sinceramente non abbia pazienza, ma se io credo che il tempo destinato alla lettura sia sempre prezioso, poi le letture vanno selezionate e anche i personaggi che parlano vanno selezionati. Io sinceramente non ho idea, ho vissuto quell'epoca, ricordo che si parlò di, insomma, come era inevitabile, no? Non certamente in queste proporzioni. Credo ci sia molta parte di mitomania in una marcor del genere. Torniamo all'ambito europeo con la vigilia di Benitez, perché poi incombe il punto sullo sciopero dei calciatori da parte di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, ma non solo, anche un aggiornamento su novità, mi pare, sostanziali a proposito della cessione della Roma. Allora, prima dell'intervallo, ancora Benitez alla vigilia di Twente Inter. Non si sa, penso che calcio è un sport particolare, qualche volta se non sta bene fisicamente, a qualità e tatticamente la squadra è in una buona disposizione, si può vincere lo stesso. Noi siamo bene, abbiamo fiducia, abbiamo vinto l'altro giorno, penso che la squadra sarà bene. No, penso che è importante sapere che la squadra ha vinto da prima, questo è buono per la mentalità, per la fiducia, e alla stessa volta è importante sapere che si è fatto lavorando tanto, con giocando le partite con intensità, questo è il cammino. problemini di ricezione anche a Recanati, in provincia di Macerata, a Riccione, nei dintorni di Rimini, e qualche insomma, problema di orientamento tra un segnale e l'altro, tra Massa e Carrara. Basta annunciare un problema e tanti altri emergono, ma siamo qua anche per provare a risolverli. Il vicepresidente della Lukoil, Leonid Fenun, avrebbe intenzione di acquistare il pacchetto di controllo della Roma, lo riferiscono alcuni media russi. Un portavoce di questo colosso petrolifero russo ha precisato che l'eventuale operazione non coinvolge però la Lukoil come azienda, ma il solo Fedun, cioè il proprietario, l'uomo, l'azionista di riferimento, che potrebbe a questo punto, così trattandosi di un grande uomo d'affari sovietico, già proprietario dello Spartak di Mosca, far concorrenza a Abramovich come patron del Chelsea. Questo è quello che più o meno si immaginano, lo sognano forse i tifosi della Roma. In realtà, insomma, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che avevo convocato al capezzale per lo sciopero dei calciatori, perché ci chiarisse alcuni aspetti, parte da qui. È tutto petrolio quello che luccica qua o... Buon pomeriggio innanzitutto. Vuoi la versione facile o quella difficile della storia? Facciamo la versione facile. Sì. Allora, partiamo dallo stato dell'arte. La Roma, come sappiamo, è in vendita dopo che Unicredit e la compagnia Italpetrolio hanno trovato in estate un accordo per risolvere la situazione debitoria di compagnia Italpetrolio. Sta per essere costituita questa Newco Roma, una nuova società nella quale confluirà il pacchetto di controllo del 67% delle azioni della Roma, che sono in mano a appunto compagnie Italpetroli per il 51%, il resto a Unicredit. Questa società dovrà essere venduta in modo tale da ripianare il debito di compagnie Italpetroli verso Unicredit. Questa è la premessa. È stato incaricato Rothschild, un advisor, di raccogliere le manifestazioni di interesse preliminari ad acquistare la Roma. Questa della Lukoil è una di queste. Una di queste, ne sono arrivate pare una ventina. C'è molto interesse ovviamente intorno al club capitolino, e a questo punto l'advisor con Unicredit, che è il creditore, dovrà valutare quali sono le più interessanti, chi offre di più sostanzialmente, in maniera tale da proseguire nelle prossime settimane le trattative soltanto con chi avrà appunto presentato offerte più credibili, selezionate. A quel punto insomma si passerà a una fase più seria, si entrerà nel vivo, immagino verso fine settembre, e a quel punto insomma vedremo cosa accadrà. Insomma, le intenzioni di Unicredit credo siano quelle di completare l'operazione entro fine anno. Non sarà semplice, ma in questo modo insomma si ridarà almeno serenità all'ambiente giallorosso, insomma, e anche la squadra in qualche modo se ne gioverà. Potrebbe risentire in senso positivo. Quindi una fase di scrematura, no? Se non ho capito male. Sciopero che a questo punto si allontana, mi par di capire, cioè sto 24-25 settembre in cui non doveva esserci calcio, dopo l'incontro di ieri con la mediazione della Federazione Italiana Gioco Calcio tra Confindustria e sindacati, insomma tra Lega e calciatori, mi pare stia andando in questa direzione. Intanto, se questa sensazione è condivisibile o condivisa da parte tua, per poi arrivare al vero motivo del contendere, perché per colpa dei calciatori che hanno comunicato, a parer mio, malissimo questo sciopero, anche scegliendo un portavoce, a parer mio, discretamente discutibile, non si è capito invece che qualche parte di ragione, per parte mia, ce l'hanno, che per secondo me ce l'hanno, e comunque potrebbero averla. La scorsa settimana, giovedì, quando ne abbiamo parlato, in qualche modo lo sciopero lo avevamo evocato, comunque una manifestazione di protesta eclatante da parte dei calciatori, perché appunto la situazione era effettivamente molto delicata. E allo stesso modo, in qualche modo, possiamo dire che lo sciopero non si farà, insomma, che non si arriverà a questa... C'è una possibilità di rientro. Sì, credo sia molto forte, anche perché appunto dall'incontro che c'è stato ieri, ce ne sarà un altro domani tecnico e poi uno più allargato venerdì, in cui è possibile che vengano tirate già le fila delle trattative, è emerso insomma il vero nodo del contendere, di questi famosi 8 punti che la Lega di Serie A ha presentato al tavolo delle trattative, e che a mio avviso vanno letti in una chiave molto precisa, proprio per capire di cosa si sta parlando, insomma, evitando di fare facili demagogie sui milionari che... Ma infatti è proprio per questo che sei stato invitato, nel senso che ho letto commenti da parte di persone autorevoli di segno opposto in questo caso, segno che insomma, è evidente che la vicenda spacca e lacera da una parte, dall'altra segno forse che proprio per difetto di comunicazione non si è ben capito. D'accordo, io partirei proprio da una frase pronunciata da Oddo, che era il portavoce a cui facevi riferimento quando è stato proclamato appunto lo sciopero, e la frase centrale della dichiarazione di sciopero era appunto: siamo persone e non siamo cose, una frase che oggettivamente non può che vederci d'accordo, ma che però va letta anche in controluce. È vero che i calciatori non sono cose, ma è anche vero che esiste un elemento patrimoniale, cioè le loro prestazioni professionali, cose sono, tant'è vero che possono essere oggetto di diritti da parte delle società di diritti patrimoniali. In questo, se è vero che appunto i calciatori non possono essere considerati beni in quanto tali, perché sono innanzitutto persone, è vero anche che le loro prestazioni sportive rappresentano un asset patrimoniale fondamentale per le società, per quelle italiane, praticamente l'unico, perché appunto, come abbiamo spesso detto, proprietà di stadi, muri eccetera. E quindi io direi che tutto quello che è stato detto e scritto finora deve essere letto sulla base di un discrimine molto preciso, e cioè capire quando prevale il diritto della società di pretendere una determinata prestazione professionale perché l'ha acquistata e perché paga il calciatore, e quando invece prevale quello che il diritto, come possiamo chiamarlo, civile, morale del calciatore in quanto persona. Chiaro che non sempre è facile, ma se leggiamo con attenzione le varie questioni che sono sul tavolo, questa linea la possiamo tracciare. Per esempio sulle cure mediche si è detto che da parte della Lega che, essendo le prestazioni professionali insomma un asset patrimoniale, dovrebbe essere sempre e comunque la società a decidere dove e come il calciatore si va a curare, perché non vogliono essere più consentite queste cure fai da te. Ed è comprensibile che le società dicano questo, però è evidente che un lavoratore, come qualsiasi persona, deve avere il diritto di scegliere. Una persona, direi, no? Prima ancora che un lavoratore, ha il diritto di scegliere come curarsi. Di scegliere dove e come farsi curare, e a quel punto dovrebbe essere per cui confermata l'attuale regola per cui il calciatore, in qualche modo d'accordo con la società, a scegliere il medico da cui farsi operare, e la società a rimborsare queste spese. Uno dei punti invece del contendere è che la Lega sosteneva la necessità di dare alle società il diritto di scegliere il medico, e che qualora il calciatore rifiutasse questo medico, dovesse poi invece pagarsi da sé le spese per cure, operazioni e riabilitazioni. Sono due tesi, tutte e due, che ci possono stare, cioè tu ti scegli il calciatore, io adesso provo a tradurre volgarmente, no? Il calciatore dice: no, la gamba è mia e me la gestisco io, faccio per dire, volgarizzo apposta, e la società ha il diritto di dire: fantastico, te la gestisci tu, ma l'intervento te lo paghi anche tu, però, perché io ti riconosco questo medico, che secondo noi è anche migliore. Se tu invece ritieni che questo medico sia più affidabile, è un tuo pieno diritto, nessuno di noi ti disconosce il diritto a farti curare da Y anziché da X, però te lo paghi. Questo ragionamento delle società potrebbe, a mio avviso, va considerato invece prevalente in questo caso il diritto del calciatore di scegliere il medico, di farsi curare da chi ritiene più opportuno, più idoneo, più bravo, e la società dovrà rimborsare, come previsto finora, questo compenso. Posso fare un piccolissimo inciso? A me sembra che questa sia normalissima dialettica e che non sia inconcepibile arrivare a uno sciopero di una categoria così privilegiata, e fin lì siamo d'accordo tutti. Su un aspetto come questo, anche se poi ne esistono altri 7, mi pare però di aver capito che tutto si è un po' incancrenito, perché i calciatori questo discorso l'hanno chiesto 8 mesi fa o qualcosa di simile, e la porta è sempre rimasta chiusa. Quanto sostiene l'Associazione Italiana Calciatori, in realtà un foglio con le 8 proposte messe nero su bianco non è stata ancora consegnata, sarà consegnato domani, e quindi diciamo che forse la situazione si poteva risolvere prima. È anche vero che nel frattempo c'è stata la scissione fra Lega di Serie B e Lega di Serie A, e quindi è nato questo nuovo soggetto che appunto chiede di ritrattare e di contrattare di nuovo tante situazioni. In realtà sono poi due i punti su cui sembra che ieri ci sia stato un muro contro muro, ed è quello, uno, della possibilità per la società di mettere fuori rosa i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici del calciatore, e l'altro è quello sui famosi trasferimenti obbligatori all'ultimo anno, il caso Batista, tanto per citare, accettare per forza. Ed è lì che, ti interrompo un istante perché siamo vicini all'intervallo, ed è lì che Campana come leader dell'associazione ha detto: su due punti noi non cediamo. Ed è lì che Beretta come capo della Confindustria del pallone si è inserito dicendo: beh, allora questo vorrebbe già dire che sugli altri 6 si può ragionare. Una parentesi in questo discorso sulle richieste dell'Associazione Calciatori, perché? Perché torna oggi la rubrica di Nicola Filippone che ricostruisce la storia dello sport attraverso le date, e che per questo 14 settembre ha trovato una chicca autentica. Ascoltiamo. Sembra ieri. 14 settembre 1980. Inizia il campionato e la prima stagione post-calcio scommesse riparte da una novità importante: la riapertura delle frontiere, con la possibilità per ogni squadra di ingaggiare un solo giocatore straniero. La Juventus di Trapattoni si affida all'irlandese Liam Brady, icona dell'Arsenal. L'Inter punta sull'austriaco Proasca, mentre il regista brasiliano Falcao fa sognare i tifosi della Roma. Il Napoli ha scelto l'esperienza internazionale dell'olandese Kroll, la Fiorentina il talento dell'argentino Bertoni. Ma non tutti i nuovi arrivi sono destinati a lasciare il segno. Basti pensare ai brasiliani Enes del Bologna e Luis Silvio della Pistoiese, o al tedesco dell'Udinese Neumann. Nel tabellino dei marcatori della prima giornata figurano solo italiani. Per la prima rete straniera bisognerà attendere il 5 ottobre. E abbiamo pescato proprio da questa giornata il primo gol straniero che fece epoca, perché va bene, abbiamo fatto un salto indietro di 30 anni. Se lo facciamo di 44, troviamo che le frontiere furono chiuse dopo la Corea del 66. Quindi da 14 anni non venivano più importati i giocatori, erano rimasti alcuni stranieri che avevano continuato a giocare, Suarez piuttosto che Altafini, piuttosto che altri, che però erano stati acquistati in precedenza. Quindi dopo 14 anni di embargo ricominciano gli stranieri, e bisogna aspettare, lo diceva Nicola Filippone, la terza giornata per arrivare al primo gol straniero. Franco Piantalida ha ripescato l'audio di quel tutto il calcio minuto per minuto. Attenzione Neri, cambia il risultato anche a Firenze, al 26esimo è passata in vantaggio la Fiorentina con Bertoni direttamente su calcio di punizione. La difesa, la barriera e tutta la difesa del Catanzaro, compreso il portiere, è rimasta di ghiaccio. 1-0 per la Fiorentina a tela di rischio dell'arbitro. Signor Milan mette termine all'incontro di Firenze, che è terminato col punteggio di 1-1. Daniel Bertoni, argentino, campione del mondo 2 anni prima con l'Argentina nel 78, l'Argentina dei generali, ma quella sarebbe tutto un altro discorso. Torniamo invece alle casistiche, alle richieste dell'asso calciatori. Diciamo che appunto Campana ha indicato quelli che sono i due punti su cui non si potrà transigere, o sarà più difficile trovare un accordo. Il primo è quello dei trasferimenti obbligatori nell'ultimo anno di contratto, a patto che siano equivalenti dal punto di vista economico. E il caso grosso, si è detto, il caso Batista, il caso Calazze, anche se poi si è risolto col trasferimento a Genova di Calazze dal Milan. Ora, per le società è chiaro che se hanno giocatori che non rientrano più nei piani tecnici e trovano un acquirente che offre insomma bei soldi per acquistarli garantendo lo stesso ingaggio, è chiaro che diventa un problema quello di gestire poi la mancata vendita, i soldi, certo, che per esempio la Roma non ha acquistato da Battista ha dovuto poi chiederli a Unicredit nella operazione che ha portato Borriello nella capitale, tanto per citare il caso un esempio che ha fatto recente, più, certo, più scalpore. Detto questo, è chiaro che se torniamo al discorso che dicevo prima, insomma, nel contrasto, nel conflitto tra quelli che sono i diritti personali dei calciatori e i diritti patrimoniali delle società, è evidente che però in questo caso è chiaro che se è stato fatto un contratto per esempio triennale e un giocatore come Battista può avere i suoi interessi, le sue esigenze per restare a Roma, c'è a mio avviso qui un profilo di prevalenza di quello che è appunto l'interesse individuale, il diritto civile di scegliere dove vivere, di scegliere quali sono le proprie relazioni. Non solo, ho l'impressione anche che questo, ed è l'impressione per esempio di Rivera e di altri che sono intervenuti in materia in questi giorni, sia in realtà un tentativo di ritorno del vincolo da parte della società, nel senso dell'ignorare la firma contestuale, che invece è una conquista sociale. Ripeto, c'è sempre un minimo di disagio, no? Usare questi aggettivi, queste terminologie applicate al calcio, applicate a un gioco, applicate a un divertimento così ben remunerato. Però rimane pur sempre il fatto che fino al 78, ricordiamo appunto, i calciatori potevano essere tranquillamente pacchi venduti postali, certo, dei pacchi postali, insomma, dal di lusso, di trattati con mille cose. Ma pur io prescinderei da questo aspetto, ripeto, forse mi ripeto, insomma, ma prescinderei da valutazioni, diciamo, di tipo morale e etico sul tipo di ingaggio che hanno questi giocatori. Gli ingaggi vengono riconosciuti dalle società e nessuno è lì con la famosa pistola puntata alla tempia, insomma. Esatto. Chiaramente qui si parla di diritti, così come per esempio può essere un diritto invece riconosciuto alle società, a mio avviso, quello di mettere fuori rosa giocatori che non rientrano nelle scelte tecniche dell'allenatore, facendoli ovviamente allenare in un altro gruppo, e non si deve per forza parlare di mobbing in questo caso, come pure è stato evocato non solo sui giornali ma anche nelle aule dei tribunali con i casi Pandev e Ledesma lo scorso anno. Insomma, credo che qui prevalga in qualche modo l'interesse delle società. Così come per esempio per quanto riguarda gli ingaggi più flessibili, quindi l'aumento di quella quota legata alle prestazioni dei calciatori, che credo, insomma, su questo c'è stata una grande apertura da parte dell'associazione calciatori, insomma, su questo l'accordo credo sia già stato trovato, sulle percentuali insomma verranno poi definite, ma in linea di massima su questo principio non c'è tanta opposizione. Sentirei, credo voglia intervenire sull'argomento un ascoltatore, Luigi da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. In merito alla posizione del dottor Belinazzo, mi permetto di dissentire, nel senso, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, perché faccio l'esempio con noi comuni mortali. Noi abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale che ci offre determinate prestazioni tra i medici che loro mettono a disposizione e le strutture che mettono a disposizione. Poi, se noi vogliamo essere operati dal professor Caldetali, dobbiamo rivolgerci privatamente e pagarlo. Credo che l'esempio ci possa stare. Diversa la situazione per quanto riguarda l'affare grosso, diciamo. Lì naturalmente c'è un contratto e credo giusto che le due parti debbano rispettarlo. Forse andrebbe rivista la cattiva abitudine dei calciatori di chiedere la revisione dei contratti appena fanno 10 belle partite. Questo... e chiedono l'aumento. Questo è oggettivo, Luigi, non c'è dubbio su ciò, però siamo sempre lì, rispondere cortesie, insomma, nel senso che uno possa anche chiedere l'aumento, no? Questo vale per qualsiasi azienda, che ti possano altrettanto legittimamente dire non ci pensiamo nemmeno, credo che faccia parte, no, delle casistiche. C'è chiaramente una sfera di opinabilità in queste valutazioni e non a caso si è arrivato alla proclamazione di uno sciopero tra le due parti. Però per esempio c'è un punto su cui i calciatori sono molto arrabbiati, che è quello delle attività professionali. C'è il calciatore che si apre a chiave un ristorante, insomma, o che inizia una carriera professionale alternativa, oggi può farlo senza alcun vincolo. Le società vorrebbero invece costringere in qualche modo i calciatori ad ottenere un consenso da parte del club, in maniera tale che il club sia sicuro sicuro che insomma non sprechi troppo energie nel frequentare i suoi locali o i suoi ristoranti, insomma questo è un punto che attiene a mio avviso proprio alle scelte di vita. Ancora chiamo in causa questo concetto, forse labile ma in realtà molto preciso, per dire per esempio che dal mio punto di vista questa è una scelta che dovrebbe invece essere rimessa nell'assoluta facoltà dei calciatori, insomma, e non essere sottoposta al giudizio, direi, insomma, del club. Direi di sì, Marco. E come temevo, non siamo arrivati a esaurire l'intero argomento, in compenso abbiamo esaurito il tempo. Allora, quello che vi propongo è questo, poiché mi sembra che ci siano ascoltatori parecchi interessati all'argomento, ai risvolti, a riflettere, a... Noi potremmo ridarci appuntamento a domani e magari sollecitarli a scriverci all'indirizzo mail, all'indirizzo di posta elettronica di Radio 24 e di A Tempo di Sport in particolare, perché in base al numero di lettere che trovo domattina mi devi concedere la libertà di convocarti o meno per il pomeriggio. Io sono disponibile, accetto anche, come dire, i contraddittori. Dissensi e contraddittori, certo, anzi, quelli sono il sale. Molto bene, allora grazie a Marco Belinazzo e appuntamento, io credo ragionevolmente, a domani, a una parte di puntata di domani, a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio a tutti. A Tempo di Sport.